Ricordate quando ho detto che noi siamo un mistero? L'uomo, ogni uomo, buono o non buono, è un mistero. Il mistero di Dio creatore è passato dentro di noi. Siamo fatti a sua immagine e somiglianza? Lui è il mistero dei misteri e noi siamo un mistero. Vogliamo arrivare a Dio e ottenere il suo perdono? Passiamo attraverso il mistero degli uomini, dei bambini, dei vecchi, dei malati, degli abbandonati, degli amici, dei nemici, e raggiungeremo il mistero di Dio, parlandoci così, chiaramente, un atto di bontà, un atto di bontà. Ti senti giù di corda, di tacco, fa un atto di carità. Possibile che non ci sia un povero sulla tua strada mai? Possibile che tu non conosca nessun ammalato, all'ospedale ce ne sono centinaia? Possibile che tu non conosca nessuno che ha bisogno di un favore? Tutto bello nelle case della tua parrocchia, del tuo paese, tutto lucido, tutto tranquillo. Vai, cerca qualcuno a cui fare un piacere. Vai in chiesa, ho detto io a qualcuno, c'è la cassetta del pan di Sant'Antonio, butta giù una moneta, vedrai cosa succederà in te. Che uscito dalla chiesa ti sentirai su di giri. Per un gesto così piccolo, autentico, è un gesto d'amore che fu diretto da te a un povero uomo, ma ha raggiunto il cuore di Dio e l'ha commosso a tuo favore. Questo io pure ho fatto e lo faccio. Nessuno di me forse lo sa, ma quando io faccio un gesto di bontà a qualcuno, quando magari rinuncio a un po' di sonno per pregare per lui, impugno la corona del rosario, eccetera, lo faccio innanzitutto per tirarmi su, io devo tirare su me stesso. Quando mi sono tirato su io, van bene tutte le cose per gli altri, perché il mio su è a vantaggio di tutti. Il mio di più straripa sugli altri. È importantissimo anche questo, un gesto di bontà, di tira su, vai a trovare un vecchio, vai a trovare un ammalato, hai sentito che c'è un tuo compaesano che è all'ospedale, vallo a cercare, cosa credi di spendere? A volte si spende, se no, un litro di benzina, dai, spendici anche di più, vai, e sarà molto più quello che tu riceverai che non quello che avrai dato. Ti sei tirato su di giri, ti sei tirato su di corda. Un'altra parola che capite tutti oggi, ti sei ripompato. Quando la gomma è giù si corre male, pompala bene, fermati al primo benzinaio, su, ripompa, metti a posto l'atmosfera delle tue ruote e sentirai come tu viaggi meglio, tu. Abbiamo bisogno di essere ripompati, gesti di carità così, sono quelli che ripompano. Dunque, una delle tre, confessione, pentimento immediato e un gesto di bontà. Chi di noi può rifiutare questi suggerimenti? Sono suggerimenti così, a portata di mano. Non avere il confessore chissà dove in capo al mondo. Aver confidenza in lui. Servirci della confessione così come ci serviamo della doccia per rinfrescarci, diventare disinvolti, sereni. L'atto di pentimento, un crocifissino, un'immaginetta di Gesù crocifisso che ti dice quanto gli sei costato e quanto egli ha fatto e intende fare anche in questo momento per te. Un bacio, due baci e sentirai che il tuo spirito è salito, il morale è cresciuto, ti sei tirato su di corda, ti sei ripompato. Non ti basta questo? O questo non sei riuscito a farlo? Cerca qualcuno che ha bisogno di te. In casa, sotto il tuo stesso tetto, un buongiorno, un grazie, un favore, una monetina, una visita. Gli porti un sacchetto di caramelle a quel povero uomo. Porti, non so, un bicchiere di vino. Oh, e ti sentirai cresciuto. Sono calate le monete dalle tue tasche? Ma è cresciuto il capitale di gioia interiore che non ha prezzo. Un atto di bontà ti fa crescere, ti fa sentire il tuo destino eterno, ti fa sentire che tu sei di Dio, che tu sei in pace con Lui, che tu hai già prenotato via telefono hai già prenotato la tua camera nell'altra casa, la seconda casa che ci attende, che è la stessa casa di Dio. Quanti peccati Dio perdona per un gesto di bontà, per un atto di misericordia. E così mi rifaccio ancora a un ricordo di quando ero qui a Bosco, curato nei primi 4 anni della mia messa. D'estate, quanto confessavo d'estate, perché molti venivano proprio, approfittando delle ferie, tranquillità di spirito, venivano a confessarsi. Ogni sabato, nel primo pomeriggio, verso le 3, così, veniva una famiglia intera, papà, mamma e 4 figli. Occupavano più o meno un banco. La mamma, il papà, poi i figlioli, tutti e 6, 4 figli e i genitori. Ma prima di entrare in chiesa per confessarsi, uno dei 6 veniva in canonica, portando una borsa piena di generi alimentari. Riso, pasta, zucchero, burro, qualche volta anche 1 chilo di carne. Ogni sabato, prima di andare a confessarsi, io vedevo questo spettacolo. Una volta, dopo tante, ho chiesto alla mamma, dico, signora, ma dove avete preso questa abitudine di venire a far la carità prima di confessarvi? E la mamma non ci teneva a dirlo, ma poi dico, signora, mi faccia questo piacere, mi dica perché, dove ha preso questa abitudine? Oh, da tanti anni. Ci siamo messi d'accordo così, io e mio marito, poi anche i figli, prima di andare a confessarci, vogliamo accappararci la misericordia di Dio e il suo perdono facendo la carità ai poveri. Noi qui a Bosco non conosciamo nessuna famiglia povera perché siamo qui a villeggiare. Invece i sacerdoti conoscono bene e allora prima di confessarci veniamo a far la carità. Bellissimo questo. Quando il ricordo dei nostri peccati ci fa tremare al pensiero del rendiconto del giudizio di Dio, c'è la scrittura che dice la carità, l'elemosina, copre la moltitudine di peccati. Facciamo gesti di carità, di bontà, di pazienza. Sopportiamo quella persona molesta, tolleriamo i difetti di quella persona, andiamo incontro anche a chi ci è antipatico. Facciamo un piacere anche a chi ci ha pestato sui piedi, ci ha fatto dei dispetti. Questo gesto copre una moltitudine di peccati.